Quindi qual è il significato che come coordinamento comasco antifascista ed antirazzista date a questa iniziativa? Ma io credo che noi dovremmo partire da perché siamo qui e qual è la ragione che ci porta a essere presenti qui a Como in questa piazza con il freddo che fa. Perché stiamo passando un momento storico, direi, particolare. Oggi come oggi vediamo una rinascita dei gruppi neofascisti con minacce, con violenze, non mi soffermo i fatti di Firenze, abbiamo visto la scritta che è stata vicino all'Ampi, forni su forni, forni che appunto lo parlavano, forni falsi come i campi concentramento di Mauthausen. Capite, sono cose che lasciano rabbrividire. Bisogna partire che il fascismo di oggi non può essere paragonabile con il fascismo degli anni 20. Gli anni 20 si parlava della grandezza della patria, del dominio, delle colonie, dell'impero. Oggi come oggi è in maniera diversa, è più subdola. Oggi per attirare la gente, per portare consensi, allora si va sull'antirazzismo, sul razzismo, su cosa significa. E in questa è la ragione che noi siamo qui e credo che sia opportuno allargare il più possibile. Fa veramente piacere questo comitato che è nato da poco, già si sta allargando con una parecchie sigle, dai partiti politici alla società civile, alle associazioni. Sono convinto che ci sono le condizioni per allargare ancora di più. Noi dobbiamo coinvolgere la cittadinanza del suo insieme, perché i rischi e i pericoli, ripeto, non è il fascismo degli anni 20, ma è il nuovo fascismo, che è più pericoloso e che raccogliendo la paura della gente, raccogliendo questo, può portare ancora a portare consenso. Noi dobbiamo rompere l'erba, tagliare l'erba sotto i piedi sul consenso e far capire la vera natura, cosa significa oggi in quella realtà che viviamo. A questa iniziativa darete un seguito? Ci saranno altre iniziative? No, questa è indiscutibilmente deve essere la prima iniziativa, perché su questo punto, come dicevo prima, date che considero il momento particolare che viviamo, in questo punto qui che noi dobbiamo insistere, dobbiamo allargarla sempre di più. Questa è la prima iniziativa per farsi conoscere. Da questa iniziativa vedremo dopo successivamente come proseguire e come andare avanti. C'è qualcos'altro che ci vuole aggiungere? No, l'augurio è che noi ci allarghiamo sempre di più e riusciamo a coinvolgere la cittadinanza su questi temi che oggi sono fondamentali, importanti per l'avvenire del nostro paese. Allora, qual è il significato che come coordinamento comasco antifascista ed antirazzista e come asci provinciale date a questa iniziativa? Allora, tutto è nato da un'esigenza comune di contrastare questo fenomeno dilagante di razzismo e fascismo che soprattutto a Como ultimamente è molto forte, e dopo le ultime provocazioni che si sono susseguite nelle settimane tra Natale e Capodanno, che sono state parecchie, e soprattutto verso appunto sedi o personaggi che rappresentano la democrazia in questa città. A questa iniziativa ci sarà un seguito, ce ne saranno altre? Beh, speriamo proprio di sì. L'idea del coordinamento è nata con l'ipotesi, e speriamo questa ipotesi si concretizzi, di portarla avanti e che questo diventi un comitato permanente. Siete soddisfatti della partecipazione? Devo dire sì, nel senso numericamente non siamo ancora magari moltissimi, però dopo il lancio del comunicato di questo presidio altre associazioni e partiti di sponda più democratica degli organizzatori hanno aderito, per cui già questo è una buona soddisfazione. Speriamo appunto che sia sempre più larga. L'argomento dell'antifascismo e dell'antirazzismo dovrebbe essere qualcosa senza praticamente una bandiera politica, cioè abbiamo una costituzione. Come mai però l'iniziativa è rimasta un po' confinata ad associazioni, partiti della sinistra comasca? Diciamo che questo è l'inizio, nel senso l'idea è venuta a noi e su questo magari ci si può dibattere, però la nostra speranza è quella appunto di allargarlo a 180 gradi, per cui speriamo insomma di riuscire a far aderire anche le sponde più democratiche, insomma che diventi un luogo comune. Come coordinamento comasco antifascista ed antirazzista e come Ampi Como, qual è il significato che date a questa iniziativa? Il significato di questa iniziativa è una risposta a questo rigurgito fascista e negazionista che sta crescendo sempre di più a Como, Sappiamo che è nata una sezione di Forza Nuova, c'è Militia che continua a fare attività, ha già in programma un'altra attività settimana prossima, fra l'altro in una piazza che è stata negata da parte dell'amministrazione comunale a una forza sindacale come la CGIL, concessa invece a questi revisionisti che vogliono cambiare la storia, negando anche l'evidenza. Insomma, non è possibile, è una cosa necessaria, bisogna esserci e bisogna vedere di esserci sempre di più. È un'iniziativa che rimane isolata o ce ne saranno altre successivamente? Ma io credo e spero che ce ne saranno altre. Noi come AMPI stiamo lavorando per creare un coordinamento permanente per dare risposta appunto a questi rigurgiti fasciisti che ci sono, e speriamo di riuscire a coinvolgere il maggior numero di partiti e di associazioni in questo. Stiamo lavorando, io come segretario dell'AMPI ho già preso dei contatti che senz'altro porteranno dei frutti, visto anche quello che è già nato spontaneamente da parte dei giovani in queste settimane. La nostra Costituzione è dichiaratamente antifascista e anche l'antirazzismo dovrebbe essere un argomento condiviso da praticamente tutte le forze politiche. Come mai però la partecipazione a questo coordinamento è rimasta un po' confinata al mondo della sinistra comasca? In questo credo che il mondo della sinistra sia più sensibile a certi valori piuttosto che altri. Di conseguenza è rimasta isolata al movimento della sinistra per questo. Per quanto riguarda invece quello che dice la Costituzione, la Costituzione vieta addirittura la costituzione del partito fascista, però come dicevo prima, tutti questi gruppi fascisti che ci sono in giro vengono comunque tollerati da tutti e di conseguenza viene anche violata quello che è la nostra carta costituzionale, perché nessuno fa niente per chiedere o comunque eseguire lo scioglimento di questi gruppi fascisti che pure ci sono e imperversano. Ma quindi è vostra intenzione cercare di allargare questo coordinamento? Sì, stiamo lavorando, come dicevo prima, stiamo lavorando per allargarlo questo coordinamento. Fino adesso è rimasto legato ad alcuni gruppi dell'associazione e qualche partito. Vogliamo vedere invece di comunque portare dentro i partiti, quelli che sono nelle istituzioni, perché poi si possa fare e chiedere spiegazioni a chi è nella stanza dei bottoni del palazzo, perché concedono spazi e possibilità a questi di voler cambiare la storia, che non è assolutamente possibile. Voi dell'Associazione di Amicizia Italia-Cuba del Circolo di Como, perché siete qui oggi? Siamo qui per cercare di dare un minimo di informazione a tutte le persone di Como, a tutti i comaschi e a chi si vuole unire a questa iniziativa su tutto quello che è successo nell'ultimo periodo nell'ambiente di Como, ma non solo, comunque in tutta Italia, perché alla fine è in tutta Italia che fenomeni di razzismo sono sempre, sempre più frequenti. E quindi l'informazione è lo nostro scopo oggi. Ci sembra che ci sia una buona affluenza, voi siete soddisfatti? Ah, sì, siamo soddisfatti perché il tempo abbiamo visto quello che è oggi, però nonostante questo riusciamo a dare tanti volantini, c'è tanta gente che è qui a presidiare ormai da più di un'ora e vediamo ancora avanti, comunque siamo positivi. Le tematiche dell'antirazzismo e dell'antifascismo, che addirittura è previsto nella nostra Costituzione, dovrebbero essere comuni un po' a qualsiasi forza politica e a tante associazioni. Come mai però oggi vediamo che sono presenti solamente associazioni e partiti della sinistra comasca? Ma io non sono d'accordo che l'antirazzismo appartenga solamente che appartenga a tutti i partiti. No, però in linea teorica dovrebbe, però i partiti di destra sappiamo tutti da che partiti provengono, soprattutto da quelli che erano ex fascisti, quindi il fascismo basandosi sul razzismo non può essere qui oggi con noi. C'è infine qualcos'altro che vuoi aggiungere? speriamo che altre associazioni si uniscano in questo bel movimento che sta nascendo più a Como, l'unica cosa. Fasciste nel territorio comasco, Forza Nuova e Milizia. Forza Nuova è un movimento politico fondato da Roberto Fiore nel 97, quando era ancora in esilio volontario a Londra, indagato per lo stragismo nero. Fiore e il movimento politico Forza Nuova non hanno neanche la decenza di nascondersi dietro alla facciata democratica delle altre sigle più o meno neofasciste presenti nel territorio e anche a livello nazionale. Forza Nuova è esplicitamente, dichiaratamente, si richiama, è nostalgica addirittura, quindi si richiama direttamente le idee del ventennio. L'altra sera addirittura Forza Nuova ha usato tenere una conferenza qui in città sul negazionismo, teoria che sostiene che i campi di sterminio e tutte le aberrazioni del sistema nazista siano soltanto una distorsione dei fatti dei vincitori della seconda guerra mondiale. Milizia invece è un'associazione neofascista composta da militanti che provengono dalle ceneri della fiamma tricolore, che organizza in città periodicamente conferenze su vari temi e invitando personaggi di dubbio gusto, come ad esempio l'anno scorso, due anni fa, è stato invitato Stefano Delle Chiaie, noto esponente stragista nero, anche lui degli anni 60-70, indagato per la strage di Piazza Fontana. Questo è un presidio per ribadire che Como è antifascista e antirazzista, perché i fascisti adesso cercano di democratizzarsi, di entrare nelle istituzioni per avere agibilità, fanno un lavoro sul territorio come Casa Pound, che apparentemente sembra che sostenga un tipo diverso di socialità, chiaro, socialità che riguarda soltanto gli esseri umani bianchi presenti in Italia, mentre segrega, discrimina, picchia o uccide, come è successo qualche tempo fa a Firenze, chi è diverso, chi ha il colore della pelle diverso, chi è emarginato, gli strati più deboli della società. Qui siamo per ribadire che noi non accetteremo la presenza in città di questi figuri, ma ne vogliamo l'esclusione. Siamo noi a dover emarginare questi individui, siamo noi a doverli ridurre al silenzio, dal basso, senza intermediari e senza alcuna richiesta. Noi pretendiamo e siamo qui per stimolare la società comasca a chiudere dal basso, sia la sede Forza Nuova, e a fare in modo che Milizia non abbia più coraggio di alzare la voce. Qui siamo contro tutti i fascismi, non soltanto il fascismo ormai istituzionalizzato sotto forma di partito o associazioni, perché è fascista, ad esempio, imporre un'intera valle, un'intera popolazione, un'opera distruttiva come la TAV, inutile del resto. È fascista richiudere i migranti nei nuovi moderni lager, i CIE, soltanto perché non hanno un pezzo di carta tra le mani che indica che si possono muovere, perché nel mondo si possono muovere liberamente le merci, gli oggetti, ma non le persone, che devono sottostare a leggi, barriere, confini, tutti artificiali e senza alcun fondamento naturale. È fascista rinchiudere la gente nelle carceri, perché soltanto perché cercano di arrangiarsi in assoluta nella società odierna. È fascista anche ridurre al silenzio un presidio e non avere autorizzazione per parlare un presidio, per comunicare con la gente. Tutto questo è fascista, non soltanto le quattro teste rasate di Forza Nuova e di Milizia. Noi quindi ribadiamo che i fascisti non avranno mai agibilità nei nostri territori, siamo noi a doverglielo impedire. Bravo. Qual è il significato che come associazione antirazzista e interetnica 3 febbraio date a questa iniziativa? Noi come l'associazione che è soprannominata associazione antirazzista e interetnica 3 febbraio, nata nel 96, siamo qui in piazza per rispondere all'appello che qui a Como si è lanciata per presidiare contro l'apertura di una sede di Forza Nuova, che sappiamo che è un'organizzazione fascista, e per quello noi aderiamo e siamo coinvolti anche dentro ogni iniziativa che va nel questo senso. Siete soddisfatti della partecipazione oppure credete che sia necessario allargare ad altre associazioni e ad altre persone? No, ma ogni iniziativa di questo genere chiama le persone, chiama le associazioni, chiama tutte le volontà che vogliono coinvolgersi. Perché oggi come oggi, nel 2012, io credo che certe cose devono sparire perché non fanno magari questa Italia che sta andando verso un futuro multietnica. Vuole dire che lasciare germogliare questo genere di idee, anche di filosofie, di ideologie, non va bene. I recenti fatti di Firenze e Torino destano preoccupazione? Si danno molte preoccupazioni perché è una cosa che sta espandendo, non solo che è lontano da Firenze a Torino, a Palermo, ma anche qui. Nelle nostre città ci sono alcuni eventi che scappano magari all'opinione pubblica, ma che sono delle cose che verifichiamo ogni giorno, delle aggressioni, anche altre cose verbali, anche fisiche, quelle lì io credo che noi tutti dobbiamo alzarsi e dire no. Da parte dei cosiddetti migranti non c'è però una grande partecipazione. Secondo te non vi è stata un'adeguata comunicazione? Una comunicazione c'è, solo che c'è questa paura, ma anche questa sentirsi non coinvolti dentro una società, allora lì si tengono o si sentono marginalizzati. Io credo che il lavoro che dobbiamo fare noi tutti è coinvolgere tutti verso un cosa comune, che questo anche riguarda loro. Riguarda loro, perché le politiche che si sono fatte hanno sempre tenuto l'immigrato in margine alle cose che si fanno dentro la società. E le persone che si trovano qui da 20 anni, da 30 anni, io credo che meritano di avere una vita civile, una vita dentro la società. Come Federazione della Sinistra di Como, qual è il significato che date a questa iniziativa? Noi abbiamo appoggiato sin da subito questa iniziativa, agevolando la creazione proprio del tavolo con le varie associazioni. Vediamo sia molto importante anche questa realtà, che ha avuto grossi problemi poi con gli ultimi, diciamo, movimenti di Forza Nuova e altre realtà di estrema destra che su questo territorio sembrano essere molto fertili, diciamo. E quindi noi cerchiamo di dare una risposta anche a queste politiche, diciamo, sia xenofobe che poi omofobe, che questo tipo di associazione porta qua, questo tipo di partito porta avanti. Quindi per noi è una risposta da questo punto di vista. Siete soddisfatti della partecipazione? Ah, sì, siamo soddisfatti, anche considerando il tempo meteorologico la risposta è stata buona. Abbiamo visto anche su Facebook, dove è stato creato l'evento, che molte sono state le adesioni, molte anche le attestazioni di solidarietà che ci sono giunte da tutta l'Italia. E quindi sì, siamo molto soddisfatti, speriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso che ci porti a rendere Como una città davvero antifascista. L'antifascismo e l'antirazzismo dovrebbero essere tematiche largamente condivise, diciamo, però vediamo che la partecipazione a questa iniziativa è prevalentemente da parte della sinistra comasca. Come mai, secondo voi? Diciamo che per adesso, diciamo che è ancora una cosa che sta crescendo, quindi noi puntiamo a che questa cosa si allarghi anche ad altro tipo di realtà. Chiaramente attendiamo che anche altri si avvicinino per questo tipo, no, di iniziativa, che noi reputiamo fondamentale, perché credo che l'antifascismo e l'antirazzismo devono essere dei valori fondamentali per un paese sano, almeno per un paese sano. A livello politico, quali azioni chiedete che siano intraprese dall'amministrazione locale e a livello nazionale dal governo? Noi chiediamo che la sede di Forza Nuova innanzitutto sia chiusa, perché reputiamo un partito incostituzionale che non deve avere cittadinanza all'interno del nostro paese. Chiediamo anche che il comune non dia più il patrocinio a iniziative di organizzazioni neofasciste come ci sono stati in questi anni. Il Comune ha dato per esempio il patrocinio a un'iniziativa di Milizia, che è un'organizzazione neofascista, l'anno scorso in biblioteca, che tra l'altro ha anche imbrattato i locali, dimostrando che queste persone sono anche degli incivili e non solo dei fascisti. C'è infine qualcosa che volete aggiungere? Beh, no, noi siamo contenti perché siamo comunque riusciti a muovere varie associazioni e quindi per noi è molto importante, reputiamo l'importanza di questo tipo di iniziativa, che sicuramente avrà una continuazione e non si fermerà ad oggi. Speriamo che questa iniziativa si allarghi, questo coordinamento porti anche altre persone non legate alle organizzazioni partitiche, ma comunque della società civile, perché penso che, appunto, come dicevi bene tu prima, l'antifascismo sia una tematica che dovrebbe essere comune a tutti. Spiace che in questo paese che ha vissuto il fascismo ci sia una parte politica che invece il fascismo lo rivendica. Come mai, ci si potrebbe chiedere, non vi è una grande partecipazione, almeno a occhio, da parte dei cosiddetti migranti? Beh, credo che sia una cosa più che altro legata al fatto che non abbiamo avuto molto, cioè nel senso non è stata molto pubblicizzata l'iniziativa. Noi puntiamo chiaramente già dalle prossime volte ad avere un apporto maggiore sotto delle iniziative un po' più concrete rispetto a, sì, questo è un pacchetto importante, ma puntiamo a fare anche qualcosa di un po' più concreto. Voi del partito dei CARC, perché siete qui oggi? Andiamo a questa iniziativa per dare un supporto, per dire chiaramente che Como non può rimanere in mano a estremisti di destra e razzisti. Questa iniziativa rimarrà isolata o ce ne saranno altre a seguire? No, ce ne devono essere altre, perché bisogna costruire una mobilitazione che porti le persone ad arrivare ad un piano politico e culturale superiore, che permetta di isolare questi soggetti e di costruire una società migliore. Ma quindi è necessario allargare questo coordinamento antirazzista e antifascista anche ad altre forze magari moderate? Va allargato a chi ci sta, certo. Perché chi non ci sta non credo voglia aderire, quindi. Ma l'importante è cercare di mobilitare il più possibile per costruire un'alternativa politica, non solo a livello di manifestazioni isolata, un'alternativa politica che perduri nel tempo e che permetta di dare delle risposte concrete ai bisogni del paese. Nonostante le condizioni climatiche non certo favorevoli all'iniziativa, all'aperto la partecipazione e le adesioni sembrano buone, voi siete soddisfatti di questo? Sì, siamo soddisfatti, cercheremo di implementare. Mentre a livello politico, voi quali sono le azioni che chiedete all'amministrazione, alle amministrazioni locali e a livello nazionale al governo? Alle amministrazioni locali bisogna chiedere di muoversi in una direttiva concreta, che è impostarsi e fare il tutto possibile per dare ad ogni cittadino un lavoro utile e dignitoso. Questa è l'unica soluzione che può permettere di arginare i razzisti e coloro che sfruttano la rabbia popolare derivante dalla crisi, che in realtà sono solo manovrati dai marchionne e dai padroni. Siamo qui con un rappresentante dell'associazione Svizzera Cuba della sezione del Ticino. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Ma è sicuramente un'iniziativa doverosa. Purtroppo un po' dappertutto, in Italia, in Svizzera, in Europa, abbiamo questi rigurgiti che fanno così accapponare la pelle, per cui è un preciso dovere della cittadinanza, ma anche delle associazioni come quelle qui presenti, così manifestare il proprio non soltanto disaccordo, ma proprio opposizione a queste pericolose iniziative. Avete in mente delle iniziative simili anche in Svizzera oppure no? Sì, il 24 di marzo a Mendrisio, al Mercato Coperto, stiamo organizzando con diverse associazioni così che hanno nel loro DNA l'antifascismo, l'antirazzismo e così che lottano contro la xenofobia. Abbiamo in mente appunto di organizzare una manifestazione già programmata, i dettagli non sono ancora ben conosciuti proprio, però posso dire che dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata ci sarà conferenze, discussioni, una cena e soprattutto a un certo punto concerti con gruppi che fanno di questi valori la loro bandiera, ecco.